Ok, niente breve jingle, ma ci stiamo lavorando. Impatto presenta Una discarica è per sempre. Allora, per chi si chiedesse il motivo di questo jingle, diciamo, e chi l'ha riconosciuto, volevamo fare un po' eco a quello che si sta muovendo in questi giorni e allo slogan che hanno lanciato i comitati che si occupano di rifiuti e discariche del Lazio, per promuovere la loro iniziativa del 21, il corteo che si terrà a Roma a Piazza della Repubblica e di cui andremo a parlare fra poco. Sì, dunque, perché questo corteo? Questo corteo è stato lanciato dal neonato presidio che si trova di fronte alla discarica di Falcognana. Per chi non lo sapesse, Falcognana è il nuovo sito designato ad occuparsi della mondezza romana, quindi nel mainstream dei media italiani è chiamata la nuova Malagrotta. La nuova Malagrotta non a caso, perché adesso si parla di discarica temporanea che durerà solamente 2 anni, ma ovviamente sappiamo come vanno queste cose. Quindi la storia parte da agosto, la storia di questo sito. È un sito di rifiuti speciali, rifiuti di cosiddetto car fluff, cioè lo scarto della lavorazione delle carcasse di automobile, che è stato indicato dal prefetto Sottile come sito che dovrebbe ospitare la mondezza romana. Quindi abbiamo assistito l'anno scorso ad un toto di scarica che voleva Corcolle, Riano, Fiumicino, tutta una serie di siti ipotizzati dalla Polverini. Adesso arriva Zingaretti e ci dà la sua versione di quella che dovrebbe essere secondo lui la soluzione del problema mondezza romano, e cioè un altro sito, semplicemente in un altro posto, questa volta sull'Ardiatina, all'interno del comune di Roma, ma quasi a toccare, a lambire la frazione di Santa Maria delle Mole. Sì, infatti il chilometro 15 dell'Ardiatina si trova proprio al confine fra la provincia di Roma, fra il comune di Roma e il resto della sua provincia. Si trova all'altezza del Divino Amore, infatti spesso ricorre anche il nome di scarica Divino Amore. Si parla insomma dello stesso sito quando c'è questa dicitura, però è molto vicino anche alla discarica di Roncigliano, insomma è tutta una zona che viene interessata da questo tipo di attacchi da parte del territorio, insomma da parte del comune, che cerca di spostare sempre più in periferia il modo di smaltire i propri rifiuti. E pare che insomma sul sito della Falcognana si riverseranno 300 tonnellate, questi dati ufficiali che dice Sottile, ma non sappiamo quanto siano attendibili, perché poi chi controlla se i camion saranno 12 o 13 o 14. Per ora, per fortuna, a controllare l'ingresso della discarica c'è un presidio attivo 24 ore su 24, e che è anche un sito di riferimento che poi daremo e inviteremo anche tutti a passare, chi volesse contribuire o anche solo capire di cosa si sta parlando e come sta andando avanti la situazione della Falcognana, ma in generale romana, perché poi riguarda un po' tutti, tira un ballo un po' tutte le questioni, sia romana che di Albano, insomma. Sì, anche perché dovrebbe andare a sostituire Malagrotta. Non vediamo come 12 camion possano sostituire un mostro come Malagrotta, che in realtà, che a quanto dicono i vari politicanti Sottile, Zingaretti e Marino, dovrebbe chiudere entro il 30 settembre. Questa data è dovuta al fatto, come abbiamo spesso ripetuto l'anno scorso, perché sulla città di Roma gravano le multe la minaccia delle multe dell'Unione Europea, che ammonterebbero a svariate centinaia di milioni qualora non venisse risolta il problema, che però dovrebbe passare anche attraverso un adeguato trattamento dei rifiuti per quel che riguarda la normativa europea, cosa che assolutamente a Roma non si fa e non è assolutamente in orizzonte fare. E quindi appunto si è scelto l'ennesimo sito, l'ennesima popolazione da martoriare. Quindi per fortuna la popolazione della Falcognana si è mossa, la situazione è anche abbastanza complessa per via dei giochi di vari politicanti che stanno iniziando a lavorare in quella zona, quindi questa trasmissione è tesa anche a chiarire a chi ci ascolta un attimo la situazione, perché qualora volesse passare nella zona o partecipare al corteo del 21 inizi a chiarirsi un attimo qual è l'ambiente, quali sono le varie entità politiche che si muovono nella zona. Quindi sì, adesso passiamo un attimo un pezzo perché stiamo parlando un po' troppo e poi ricominciamo magari con una corrispondenza da un compagno che si trova lì al presidio. Era a Roma agosto, magari ricorda la manifestazione che fu indetta dai comitati, insomma dalle varie realtà che si muovono intorno alla discarica della Falcognana, e magari ricorda anche la presenza non propriamente simpatica dell'ex sindaco Alemanno. Ecco, forse sarebbe il caso di chiarire un po' qual è la composizione di questa mobilitazione, perché ovviamente essendo una situazione molto popolare ci sono varie realtà e non sono tutte simili e non sono neanche tutte molto collaborative o collaborano fra di loro. Comunque anche noi ci siamo posti questo problema, ovviamente siamo andati un po' a capire com'è la situazione più da vicino, e quindi se ci vuoi introdurre un po'. Sì, dunque appunto parlavamo del fatto che in agosto, quando tutti erano più o meno addormentati sulla spiaggia, è uscita la notizia che all'inaugurazione della nuova fascia pedonale ai fori al Foro Romano, sotto il Colosseo, c'è stato un litigio tra l'ex sindaco Alemanno e l'attuale sindaco Marino su il sito della discarica. Ovviamente tutto questo non c'è bisogno di spiegarlo, è stato utilizzato a scopo strumentale da Alemanno, che passava di lì per caso, si è visto questo corteo e ci si è messo a capo. Purtroppo non c'erano, cioè questo corteo, questa protesta era molto genuina, no, più che genuina, organizzata in poco tempo. Infatti, spontanea, semispontanea. La notizia era partita da poco. E comunque peraltro lo sventolio dei tricolori eccetera era dovuto al fatto che ci sono alcune realtà politiche che erano già presenti nella zona del Divino Amore, che è ad esempio questo famoso Cuore Tricolore, che è un'associazione che si appoggia sul PDL, quindi i primi a muoversi sono stati più o meno loro. Naturalmente questa iniziativa al Colosseo è stata prima che si costituisse invece il presidio popolare della Falcognana, che non è sovrapponibile con questo Cuore Tricolore, anzi ne ha preso le distanze, anche se spesso si trovano a fare le iniziative assieme, perché condividono lo stesso territorio fondamentalmente, quel territorio insomma. Ci abitano svariati personaggi folcloristici come Brunetta, Sandra Milo, insomma sì, abbastanza lo scenario è abbastanza divertente, e quindi non bisogna farsi confondere da queste cose. La protesta non è una protesta del PDL, ma nel territorio comunque c'è da segnalare l'esistenza di queste associazioni. Il corteo del 21 invece è stato chiamato dal presidio popolare No Discarica Divino Amore, che è il presidio che è presente appunto H24 all'entrata della discarica della Ecofer, della Falcognana, la discarica tuttora esistente di rifiuti speciali, in cui però si segnalano spesso lavori di scavo e evidentemente di ampliamento per arrivare ad ospitare anche i rifiuti di Roma. Sì, io darei anche il sito internet di riferimento, il blog di riferimento del presidio, che è www.nodiscaricadivinoamore.wordpress.com. Ci sono un po' di informazioni, anche di dati documentali per chi volesse consultarli. Poi ovviamente la discarica è molto vicina, il luogo è molto vicino perché sta sull'Ardeatina, quindi chi volesse passarci il 18 faranno anche un'assemblea pre-manifestazione. E passerei un pezzo e poi chiamerei, fare un collegamento da un compagno che si trova lì. I'm high as a kite, I just might stop to check your phone. When I'm a walking, I strut, I stop, and I'm so strung out. And I'm high as a kite, I just might stop to check your phone. Body and beats, I stay my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. When I'm a walking, I strut, I stop, and I'm so strung out. This guy, I just my hands up to check you out. Let me go on. must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Allora, torniamo in diretta, stiamo per collegarci, anzi siamo collegati, come avete potuto sentire, con una persona che è al presidio e ci farà un po' un report della situazione. Pronto Paolo, ci senti? Sì, ciao e un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Ah, perfetto, siamo contenti che funzioni tutto, qua non eravamo sicuri. Sai, sono successe tante cose strane durante la pausa estiva, tipo i bagni puliti, tutte queste cose qua, i telefoni spostati, quindi chi ci ascolta ci perdoni gli errori di regia. E senti, allora noi ti chiamiamo per avere un po' un quadro della situazione, di tutto il problema rifiuti, per quel che riguarda la discarica della Falcognana, ma anche con la discarica di Roncigliano, che sta più o meno a 9 chilometri lungo l'Ardeatina. Insomma, sappiamo che quello è diciamo quello che è stato indicato da Zingaretti come il nuovo distretto della Mondezza di Roma, dato che ci sono un sacco di impianti di trattamento. E quindi vogliamo sapere un po' le proteste che vogliono portare avanti i cittadini della zona, insomma, del presidio, e se ci puoi parlare anche del corteo di sabato 21 a Piazza della Repubblica. Ok, guarda, vabbè, cominciamo. Insomma, il corteo è sabato 21 alle ore 15 da Piazza della Repubblica per finire a Santi Apostoli. La manifestazione come è nata e come si va costruendo tutto, insomma, si è mosso alla fine dell'estate, quando praticamente nel periodo di Ferragosto si è concretizzato questo nuovo toto di scarica con il sito della Falcognana, che è questa discarica che è già presente, una discarica che raccoglie gli scarti non metallici delle automobili, e che verrà convertita tra virgolette per accogliere i rifiuti solidi urbani di Roma, Fiumicino, Ciampino e la Città del Vaticano. Tra l'altro, non c'è un progetto per capire i rifiuti speciali che adesso vengono smaltiti all'Ecofer che fine faranno? Perché mi pare che è l'unico sito che ha questo, che smaltisce quel tipo di rifiuti nella regione, quindi non si sa bene dove mandarli. Il fatto che i rifiuti verranno stoccati insieme in buche a quanto pare adiacenti, e addirittura utilizzare alcuni strati dei car flu per fare della specie di coibentazioni, come le indicano sul progetto, ma comunque, insomma, il rischio, insomma, che venga mischiato il rifiuto pericoloso, qual è il car flu, con il rifiuto solido urbano, è forte, veramente molto forte. Ma che schifo! Una discarica musli. Una discarica? No, no, lascia aperto, non ti preoccupare. No, un polpettone, insomma, di discarica. Vabbè, però questo non ci dovrebbe stupire molto. È un bel problema, perché appunto fino ad oggi quella è una discarica di rifiuti pericolosi. Pronto? In alcuni casi saranno adiacenti. E addirittura appunto, dicevo, appunto, si parla di utilizzare strati di Carflu per fare delle eventuali separazioni tra tipi diversi di rifiuto. Una cosa abbastanza complicata e anche dal punto di vista amministrativo veramente forzosa, molto al limite della prassi, tant'è che non è un caso che il dirigente che segue questa pratica in regione, all'ufficio territorio e ambiente, il famigerato Fegatelli, insomma un dirigente dell'area rifiuti coinvolto praticamente in tutti gli scandali che hanno colpito la regione Lazio ormai da insomma 6-7 anni a questa parte. Fegatelli, insomma, che è una conferma che l'operazione è veramente truffaldina da molti punti di vista, anche dichiarazioni sottili che soltanto 12 camion transiteranno sull'Ardeatina al giorno, è evidentemente una bufala, sono 300 le tonnellate al giorno da portare lì dentro, almeno 300, e non sono 12 camion, cioè ne sono almeno 50. E quindi insomma, e poi la questione dei rifiuti trattati, come abbiamo visto bene ad Albano col decreto Clini, insomma si continua a dire menzogne parlando di questo fantomatico trattamento dei rifiuti che ridurrebbe il rischio per le popolazioni, insomma è tal quale sminuzzato, niente di più. Quindi insomma si ripropongono tutte le stesse dinamiche che si sono riproposte in quest'inverno col decreto Clini. Sì, però per esempio per le altre fantomatiche discariche che poi non sono state più, gli altri siti di discariche che poi non sono più diventati definitivi, questo sembra definitivo, cioè come il caso di Riano, sì, come il caso di... Il camotage è quello di praticamente, tra virgolette, lo dico, convertire una discarica che già c'è con un invaso da 1 milione di tonnellate già praticamente pronto, che doveva ospitare il Carflu, convertirlo a rifiuti solidi urbani. Questo è l'escamotage che intendono utilizzare per aprire questa nuova discarica di rifiuti solidi urbani. Quindi non ci sono... Mentre negli altri posti comunque bisognava effettuare comunque dei lavori che impegnavano qualche mese insomma per la sua realizzazione, invece in questo posto qui in realtà il 30, magari proprio il 30 settembre quando scade la proroga di Malagrotta, no, però insomma poco più là sarebbero pronti ad accogliere i rifiuti di Roma, e quindi insomma l'allarme si fa più forte proprio per questo motivo, perché insomma l'invaso lì è pronto ed ha un'aia che però prevede è fatta e studiata per accogliere rifiuti solidi urbani. Per rifiuti speciali, non rifiuti solidi urbani, quindi questa è un'altra contraddizione che non so come supereranno, però insomma visti i larghi poteri in materia del commissario Sottile, qualche cosa si inventeranno anche da questo punto di vista, e quindi insomma si fa abbastanza preoccupante la situazione per questo nuovo sito di discarica. Le voci sul fatto che i proprietari dei terreni limitrofi tutto intorno alla discarica siano anche già stati contattati per cedere i propri appezzamenti per un eventuale successivo ingrandimento, queste voci sono già confermate, il presidio insomma già sondato tutti i residenti là intorno, insomma è evidente che c'è il serio rischio di magari non una nuova Malagrotta ma di un grande duraturo nel tempo, e che insomma provocherà insomma i danni che sappiamo bene, proprio perché 10 chilometri, nemmeno 10 chilometri, sempre sull'Ardeatina c'è un'altra discarica che insomma penso sia arrivata proprio al limite di tollerabilità per la popolazione. Insomma il settimo invaso sta a 150 metri dalle case e si è riempito a una velocità spaventosa, e insomma e il fortissimo odore nauseabondo praticamente è ormai fisso su quel tratto di strada 24 ore al giorno. Paolo, senti, ma comunque cioè, in tutto questo noi sappiamo che le popolazioni d'intorno non sono state con le mani in mano, anzi abbiamo notizia di svariati blocchi stradali, di un corteo a Santa Maria delle Mole che ha bloccato l'Appia ieri, un corteo previsto un corteo invece previsto per domani sull'Ardiatina, tutto questo per impedire che i camion, prima di tutto per far prendere coscienza alle popolazioni là intorno che la nuova Malagrotta si sta spostando proprio vicino le zone di Pavona, Santa Maria delle Mole, Falcognana, Divina Amore, ma anche comunque per bloccare la strada, dare disagio, insomma tentare di non farli proprio arrivare questi camion da Roma. Tu ci sai dire qualcosa su che cosa stanno organizzando? Allora, guarda, le iniziative che raccontavi, che ci sono state di blocchi stradali, è vero, ci sono stati, però non erano per non far entrare i camion dentro al sito della discarica, ma erano più per dare un segnale al mondo della politica e delle istituzioni su quello che stavano combinando, e insomma sono quasi sempre ricadute a ridosso di passaggi significativi per questa vertenza, incontri istituzionali che prospettavano questa ipotesi di discarica. L'iniziativa a Santa Maria delle Mole ha visto il blocco per un'oretta della via Appia da parte di 100 persone, assolutamente una situazione assolutamente tranquilla e con praticamente assenza delle forze dell'ordine, che ha prodotto, logicamente siamo sull'Appia alle 5 di pomeriggio, ha prodotto una fila notevole sul raccordo e sull'Appia, ma insomma è passata assolutamente in maniera non c'è stata nessuna opposizione da parte dell'ordine a fare un'iniziativa del genere. Evidentemente non vogliono fare notizia. Però questa miriade di iniziative che vengono portate avanti ci fa insomma aprire il discorso sul fatto che ci sono anche miriadi di comitati sorti proprio sull'onda di questa emergenza, sia sul quadrante romano del comune di Roma, del nono municipio, sia sul quadrante dei Castelli, quello, perché poi effettivamente questo posto è molto vicino al comune di Marino, adiacente al comune di Marino, meno di un chilometro dalla cantina sociale Gotto d'Oro di Marino, e quindi vicino agli abitati delle frazioni di Marino. Eppure lì ci sono formati dei comitati che hanno fatto delle iniziative proprio o di sensibilizzazione o di protesta contro questa decisione. Comitati che a secondo, insomma, adesso non posso entrare troppo nel dettaglio, però diventerebbe pure lungo. Un po' l'avevamo accennato anche noi. Comitati che sono espressioni di forze politiche istituzionali e si muovono in quell'ambito lì. Insomma, il sindaco di Marino, che si è stato l'incarico perché è diventato consigliere regionale del PDL, si è speso moltissimo per contro dichiarazioni contro questo tipo di scarica, poi i fatti insomma ancora non si sono visti, e uguale il consiglio comunale di Marino in maniera unanime ha votato contro la discarica in quel posto. Perché ci sono dei motivi, i motivi sono legati a interessi trasversali, legati a progetti di cementificazione che hanno rinsaldato il Consiglio Comunale in maniera bipartisan e anche dal punto di vista di presenza sul territorio proprio contro il progetto di discarica, e quindi insomma il comitato che si è formato a Santa Maria delle Mole ha una veste molto istituzionale e promuove iniziative di tipo istituzionale, raccolta firme, ricorsi e niente, poi insomma cercherà di muovere le proprie conoscenze per opporsi, ma insomma non si capisce bene cosa in realtà si faccia. Poi d'altro canto c'è anche il comitato contro la cementificazione di Marino, che proprio si batteva contro le speculazioni edilizie sempre proprio in quel quadrante, e ha deciso di affrontare anche questo problema e di aprire una campagna contro il progetto di discarica, però insomma facendo valere e portando avanti un discorso che sostanzialmente unifica la battaglia contro le speculazioni edilizie a quella contro la discarica, perché insomma la devastazione dell'agro romano è analoga in entrambi i casi e non ci si può far finta di niente che insomma personaggi pesantemente coinvolti in speculazioni edilizie poi magari dichiarano pubblicamente che bisogna difendere l'agro romano dai discariche. E insomma, e quindi ci si porta appresso anche questo tipo di contraddizioni. Però comunque l'argomento e la fama assassina delle discariche ha provocato grossa preoccupazione nella popolazione, e insomma è evidente che insomma che c'è una sensibilità e una risposta seppur minima comunque c'è della popolazione a mobilitarsi con questo progetto che è sotto gli occhi di tutti, è palesemente una cosa nociva che non farà che peggiorare le condizioni di vita delle persone e poi d'altro canto anche influire pesantemente su tutto il settore immobiliare che invece in quella zona è molto redditizio per alcuni personaggi. Infatti secondo me insomma come si dice non tutto il mare viene per nuocere, perché alla fine questa sono andati a incidere in quel territorio che comunque ha varie vertenze aperte e anche varie situazioni che si sono ben incrociate con la questione della discarica falcognana, a partire dalla questione di Roncigliano e Novinci di Albano a quella della cementificazione di Santa Maria delle Mole. Comunque sono riusciti, cioè in questa maniera andando a rompere le scatole proprio lì in realtà hanno creato una forma di rete che insomma come risposta si sta creando una rete o almeno una collaborazione fra varie vertenze che potrebbe essere interessante. Sì, infatti dal manifesto del corteo leggiamo proprio che tutte le varie opposizioni a inceneritori, discariche, impianti a biogas, cementificazione del territorio si sono un po' unificate. Quindi sta venendo fuori un qualcosa di unitario, si spera. Sì, anche il discorso estremamente locale del territorio specifico, insomma, con nome e cognome, sta aprendo un discorso un po' più ampio su devastazione del territorio in generale, questione rifiuti, questione riciclo, insomma, questione ambientale, riesce a portare un discorso un po' più complesso, mi sembra, o almeno potrebbe portare in quella direzione, mettiamola così. Guarda, fortunatamente fin dalle prime discussioni che ci sono state preparatorie dell'iniziativa, questa volontà di cercare di affrontare la complessità delle contraddizioni che viveva quel territorio c'è stata. E poi logicamente ci sono percorsi differenti che possono portare insomma problemi e contraddizioni specifiche. Però comunque c'è stata fin dall'inizio la volontà proprio di non ghettizzarsi su un allarme sicuramente forte, ma su una specificità, ma invece cercare di interconnettere le varie criticità che ci sono in quella zona e soprattutto mantenere un atteggiamento solidale tra tutti i territori, evitando insomma quel meccanismo squallido dello scaricabarile qui sì, qui lì sì, qui no, che invece fa molto comodo a chi governa, invece è un'arma di solidarietà invece molto forte per i comitati. Non riuscire a spezzare questo fronte di solidarietà fin dall'inizio ha sempre provato grossi problemi. Chi si è prestato, comitati che magari si sono prestati in passato in operazioni di questo genere insomma sono stati anche pesantemente attaccati, perché così facendo portavano acqua al mulino di chi questi progetti invece li vuole fare, e quindi quello sicuramente è andato molto buono, che però va sempre sostenuto col dibattito e con l'analisi e appunto riuscendo a mettere in piedi iniziative che colpiscano insomma la complessità di questa situazione. Quindi è un buon punto d'inizio, però insomma c'è ancora parecchio da lavorare, perché logicamente quella di sabato 21 sarà la prima iniziativa è la prima iniziativa che, che viene fatta a Roma, da praticamente convocata da gran parte da comitati della provincia di Roma, e quindi insomma una bella scommessa. Ci si misura anche con una sfida nuova, più impegnativa, che va, poi vanno tratte le conclusioni, anche le verifiche, eventualmente anche gli errori, ma che insomma è un elemento di novità insomma rispetto invece a iniziative fatte in passato. Sicuramente l'allarme del nuovo sito dà una spinta propulsiva a questa iniziativa, ma insomma c'è anche la speranza di continuare così e allargare continuamente, magari, come si è detto più volte, magari di riuscire ad avere veramente una vertenza collettiva del territorio nei suoi vari ambiti di criticità, e non una polverizzazione specifica per argomento. Ma insomma questo è un processo che è in divenire, insomma lavoriamo anche per far sì che questa cosa sia più forte. Grazie Paolo, noi ti ringraziamo e insomma ci si vede sicuramente in piazza il 21 settembre alle ore 17:30, 17, vero? E a Piazza della Repubblica. Settembre ore 15:30. Ah, 15:30, scusami, è vero. Quindi sul presto invece che sul tardi. Allora, 21 settembre ore 15:30 a Piazza della Repubblica, corteo contro le discariche e per lo smaltimento adeguato dei rifiuti, senza, ripeto, tutti i procedimenti, comunque contro la devastazione. Scusate. No, vabbè, li vogliamo ripetere. Riciclaggio, riuso dei rifiuti per riduzione. Riduzione. Ok, allora, un saluto a tutti quanti voi e insomma ci risentiamo nei prossimi giorni con magari novità e le iniziative che ci sono anche nel corso della settimana, diciamo, preparatorie. Ah, ce ne vuoi dire qualcuno? Il corteo del 21, sicuramente una che ricordo io, domani pomeriggio alle 5, alle 17, c'è un corteo nella zona del Divino Amore che rilancia l'appuntamento di sabato, quindi domani pomeriggio. Ah, quello alle 17:30, ok. Quello alle 17, sì. Da via Ardeatina, al chilometro 15. Va bene, grazie. Grazie, ciao, ci risentiamo. Ciao. Ciao. Mein Mission vor, ein bisschen soon. I raced with cars, with the bike and the train, only to come cold back again. I searched the roof, through pockets, on the bed, in the closet, in the fridge, everywhere. Oh, everywhere and over all in it. Then suddenly the stars fell down, and one by one undressed the big blue room. My one way to escape out through the horizontal vertical and movements in the metal azul. The sun and the moon. I travel light, travel time, travel thoughts. I return from the jungle with a glass full of stars. We'll be right back. Allora, 87.9, Impatto è in chiusura, ricordiamo gli appuntamenti della settimana, non li ricordo io in quanto mi hanno declassato al ruolo di speaker, quindi sì, quindi domani sull'Ardeatina all'altezza del Divino Amore alle 5, corteo contro l'apertura, contro l'arrivo dei camion previsto dal commissario Sottile, mentre alle 3:30 di sabato 21 settembre, quindi sabato prossimo, abbiamo l'indizione di un corteo a Roma, un corteo contro tutte le devastazioni territoriali, quindi con una piattaforma molto ampia, dal no alla cementificazione a no a nuove discariche e inceneritori, che partirà da Piazza della Repubblica per arrivare a Piazza Santi Apostoli. Quindi ripetiamo, domani alle 5 sull'Ardeatina, mentre sabato a Piazza della Repubblica alle 3:30. Ringraziamo tutti gli ascoltatori e gli ascoltatrici, questa puntata di Impatto finisce qua, torniamo lunedì prossimo alle ore 17:30 sempre sugli 87.9. Tra pochi minuti inizierà il tappabuchi.